Senta Gasparri, che effetto le ha fatto, l'avrà letta, no? questa famosa pagella, poco televisivo ma passionale. Dice, aveva detto, gliela leggo, tanto sono due righe, no? Così, giusto per ridere. Aveva detto a Berlusconi che i Finiani ai tempi del 14 dicembre erano quattro gatti e che il PDL non doveva preoccuparsi. Ci è mancato poco che facessimo la fine dei topi, salvandoci per un voto. Poco televisivo ma passionale, a lui preferiamo Neri Marco Re. Fomentatore, voto 5. Si allora, riconosce, guarda, in questo? La cosa è stata fatta da un giovane che è sindaco di Pavia, sì, che ha 32 anni, che da un anno è sindaco di Pavia. Faccia bene il sindaco di Pavia e poi da grande fa anche un po' di politica, poi, dai. Dico, quindi intanto faccio quello che deve fare e spero si faccia rieleggere sindaco come i sindaci devono fare. Per quanto riguarda la vicenda, è anche disinformato chi ha scritto la pagella. Io e la Russa demmo esattamente i nomi completamente precisi di come avrebbero votato gli esponenti di AN, due terzi a favore del governo, un terzo no, con l'elenco nominativo abbiamo indovinato il 99%, altri invece, non noi, dicevano cose diverse. E quindi questa vicenda è storicamente, come dire, errata, non conoscono i fatti e quindi scrivono una cosa che hanno letto da qualche parte. Noi abbiamo ancora i documenti che demmo a Berlusconi e devo dire abbiamo avuto una percentuale di individuazione del voto, perché conoscendo i nostri colleghi di partito, conoscendo i loro pensieri, le loro opinioni, abbiamo indovinato quasi al 100% quello che sarebbe accaduto e siamo stati sempre molto, attenti su questo versante, abbiamo invitato alla prudenza, ma lo scontro tra Berlusconi e Fini, che sono stati in quella fase i capi dei falchi dei rispettivi partiti, ma poi è emerso nel tempo, sì, sono proprio personalmente. Vabbè, insomma, non se la prende più di tanto per questa cosa qua. Ma non conoscono queste vicende. Dopodiché alcuni vogliono bruciare le tappe, si facciano conoscere, facciano, abbiamo fatto noi tutte le battaglie politiche. Chi è già oggi amministratore di una città pensi a far bene. Quando uno si fa eleggere un incarico non deve pensare all'incarico successivo, deve fare bene quello da cui, per quale è stato scelto dagli elettori.